GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. Il prefetto di Catania Giovanni Finazzo firmerà in mattinata l'ordinanza che vieta la trasferta nella città etnea ai tifosi della Roma in occasione della gara di domenica. La decisione è arrivata in seguito ad una serie di valutazioni arrivate da questura e prefettura. Analoghe decisioni potrebbe prendere oggi il prefetto di Parma Paolo Scarpis, ovviamente nei confronti dei tifosi dell'Inter. L'unica voce interessata, l'unico commento è al momento quello del presidente del Catania, Antonino Pulvirenti, che sentiamo. Ci sarà una città indera che spingerà questa squadra alla conquista della salvezza. Mi dispiace per i tifosi della Roma, purtroppo non è una decisione che abbiamo preso noi, ma è una decisione che ha preso l'osservatorio del Viminale e di conseguenza va rispettata così come hanno fatto i nostri tifosi in passato. Sempre sulla strada dello scudetto, le ultime dai campi confermano che Zlatan Ibrahimovic ci sarà a Parma, anche se andrà in panchina. Mancini intenzionato a confermare la squadra che ha pareggiato con il Siena, con l'unica variazione di Stankovic al posto dell'infortunato Cambiasso. Allenamenti blindati anche per la Roma, ma anche qui si va verso la conferma dell'11 che ha battuto l'Atalanta, con Aquilani di nuovo trequartista e con la grande fiducia di Sissigno. Sentite. Sicuro che la Roma vince. Scudetto. Okay. Intanto chi può festeggiare la conquista del primo trofeo internazionale di questa stagione di coppe è il sorprendente Zenit San Pietroburgo, che ieri sera a Manchester ha conquistato la Coppa UEFA, sofferto però il 2-0 sui Rangers Glasgow, con i gol che arrivano nel finale al 27esimo Denisov e nel recupero il gol sicurezza di Zirianov. Torniamo in Italia per parlare di giro. Anche qui si parla russo per un giorno con Pavel But, che vince a contursi la quinta tappa. Intanto, dopo le proteste dei corridori, oggi avremo una tappa più corta. Le lamentele del gruppo trovano il consenso del direttore del Giro Angelo Zoviniani, il quale accoglie le richieste di Danilo Di Luca e Robbie McEwen. Oggi la potenza Peschici, sesta tappa del Giro, non sarà di 264 km, ma di 232, 30 km in meno per consentire ai corridori di arrivare prima, sia sul traguardo che nei rispettivi alberghi, che in effetti non sono mai vicinissimi. Il Giro riparte da Potenza con Franco Pellizzotti sempre in maglia rosa. Solo secondo lo separa dall'americano Van de Velde, ma da 4 giorni questo secondo sembra essere un vantaggio più rassicurante, diciamo pure insuperabile. Pier Augusto Stagi, Giro 24, Sole 24 Ore, Potenza. A Siena invece il campionato di basket trova la sua prima semifinalista. La Montepaschi, campione in carica, ha battuto per la terza volta ed eliminato la Fortitudo Bologna. Partita bellissima questa gara 3 della serie, con Bologna a condurre fino al terzo quarto e poi il gran finale di Terrell McIntyre, autore di 10 punti decisivi nell'ultimo periodo per l'85-74 finale. Nell'altra serie dei quarti sarà invece l'Armani Milano ad avere venerdì il primo match ball dopo aver vinto ieri sera 90-72 sul campo della premiata Montegranaro con 26 punti di Melvin Booker. Infine, conferenza stampa shock ieri per il tennis mondiale, una conferenza stampa nella quale la numero 1 del ranking femminile Justine Henin ha annunciato a soli 25 anni il ritiro dai campi. Decisione definitiva, ha assicurato la Henin, che in carriera ha vinto 41 tornei, di cui 7 del Grande Slam, Australian Open, 4 edizioni del Roland Garros e 2 degli US Open. Intanto notizie amare da Roma arrivano per il tennis azzurro. Dopo 2 turni delle italiane in tabellone rimane soltanto Sara Errani. Deve lasciare gli internazionali d'Italia anche la numero 1 azzurra Francesca Schiavone, eliminata al secondo turno dalla francese Alice Cornet. 6-3, 6-2. È tutto per questa edizione di GR Sport. Di nuovo buona giornata.